batteri della fermentazione lattica. Sì, stiamo parlando di batteri e di enzimi. Beh, allora facciamo così: io intanto metto questo gingolino che potrebbe aiutare chi ci ascolta a capire che questa puntata tratterà di batteri e enzimi. Creatività generica. Più o meno, no? No, comunque effettivamente siamo. Questa puntata tratta di sapori, di territorio e di cultura. E se si parlava di Cina è perché il caro Pasquini è proprio in Cina in questo momento. E per introdurre la trasmissione ci ha mandato anche un pensierino che adesso ascolteremo tutti insieme. Se lo trovo. L'avevo trovato? Non l'ho trovato. Rimasto nella chiavetta? Insomma, queste sono le cose estremamente coxiche che capitano ogni volta. Diciamo, mi sono tolta subito l'errore nella prima fase, così poi magari poi vado dritta. Eccolo qua. Era anche già in play. Un bel Pasquini dalla Cina. Ciao Fedra, ti mando un saluto per tutti gli ascoltatori di Coxo Spaziale da un tempio taoista a Shanghai. Carino, no? Vi è piaciuta la voce del co-conduttore? Sì, un po' lontana, un po' anche triste. Ma voi siete distratti, siete lì, non mi guardate, siete lì a guardare che cosa? Lo schermo. Ma come? No, guardate me. Va bene, qui, guardiamo te, qui. Stiamo imparando. Ciao amici, come vi sentite ad essere i super mega galattici ospiti unici e soli della 180esima puntata del Coxo? Impegnati. Ve l'aspettavate? Non mi aspettavo questa questa cosa, ma ci siamo contenti di questo. E soprattutto siete qui al Coxo per parlare di qualcosa che, appunto, dicevamo, riguarda il sapore, il gusto e la cultura. Avrà luogo a Palazzo Renzo domenica e lunedì, non il prossimo ma quello dopo, infatti poi ci risentiremo settimana prossima per le menzioni, e si tratta precisamente della seconda edizione di cosa? Di una fiera sul vino biologico e biodinamico, con l'intervento dei produttori presenti, artigiani di prodotti sostanzialmente naturali, genuini, cercato di portare persone, produttori, aziende vitivinicole che un po' nascoste anche, poco presenti nelle fiere, ma nel campo enologico sicuramente delle eccellenze. Italia, Slovenia e Francia. Ah, poco, okay. Presenti anche a livello logistico, mi raccontavi. Sembrava ironico. Sì, no, sì, c'è stato qualche problema. Alcune casse di vino dovevano arrivare il giorno dell'evento, cioè il 7-8 maggio, a Palazzo Renzo. Sono arrivate ieri. A Palazzo Renzo. A Palazzo Renzo, che da oggi al 7-8 maggio avrà 10 eventi. Ah, bene, beh, saranno contenti i protagonisti di quegli eventi ad avere questo buon vino. Sì, ma si inizia bene, si inizia con tanta gioia. Mettere insieme 100 teste diverse, 100 fondamentalmente agricoltori che sostanzialmente sono in vigna o in cantina e non davanti a un computer. E infatti anche di questo parleremo, per andare proprio alle radici di che cos'è anche creare un evento del genere, che poi unisce, appunto, dicevamo, cultura in tante forme. Siete qui apposta per farvi. No, allora, praticamente, innanzitutto vorrei sapere, parliamo di seconda edizione, com'è nata questa idea, da chi è nata e com'è andata l'anno scorso, tipo dov'era, quanti produttori, e soprattutto sì, anche come reagiscono a questa proposta, appunto, i contadini, i vinicoltori, quelli veri, quelli che magari non hanno un ufficio marketing, no? Perché si tratta proprio di andare a trovare quelli che lo fanno ancora come una volta, forse, o anche in maniera più forse sofisticata, andando a recuperare tradizioni ormai desuete? Ma sicuramente sono vecchie, antiche metodologie con le informazioni dell'epoca moderna, no? L'idea nasce da Medulla Vini, che è una realtà presente a Bologna da 3 anni e mezzo. In via Oberdan. In via Oberdan. Non mi sono sbagliata. Barra, sì. Di solito la confondo sempre con via Nazario Sauro, invece sto giro sono andata dritta, da in sottolineare. Via Oberdan, esatto. Artigiani del Vino nasce come un'idea di una fiera biennale, non annuale. La prima c'è stata 2 anni fa a Villa Liparini. Quest'anno Villa Liparini, che... a Villa Liparini in Vicolo Bolognetti. Ah, via Vicolo Bolognetti. Ho capito. Quest'anno c'è Palazzo Renzo, c'è la location più esclusiva di Bologna. Infatti vuol dire che avete fatto il botto 2 anni fa. Ma non è il botto, quest'anno dovrebbe essere il botto, no? Con Palazzo Renzo. Palazzo Renzo, sì, bellissima, però comporta una serie di problematiche che magari altre location non hanno. Tipo questa che è Gignaioli, che di solito ci portano il vino dietro, adesso lo devono spedire. Non è semplicissimo fargli capire che lo devono spedire e non se lo devono portare dietro. Sai, mi immagino il contadino appunto croato, dicevate del... Sì, però sono ben predisposti, perché appunto hanno partecipato, molti di loro hanno partecipato 2 anni fa. Ah, okay. All'evento a Villa Liparini. Era maggio, cos'era? Luglio. Era luglio. Giornata è stata bellissimo, tutti contenti, visitatori e produttori, però la giornata più calda dell'estate, 40 gradi all'ombra. Hanno potuto vedere lo sforzo e i problemi che abbiamo avuto per questo clima, e ci sono rimasti vicini. E quest'anno abbiamo anticipato di 2 mesi. Da ringraziare tutta la vita per la fiducia che ci hanno dato in tutti i modi. Chi? I produttori. Ah, ok. Perché comunque sia per accettare un invito del genere bisogna aver fiducia nell'organizzazione, no? Ma sì, io non lo so, come mai? Beh sì. Beh, c'è una produzione. Comunque anche per loro è una spesa, comunque ah, sia. Ah, ok. Ma è un investimento, no? Sì, sì, certo, però l'investimento si fa se credi nell'investimento. Ok, sì, sì, ma effettivamente se vi siete trovati bene a luglio sudando. No, io sono contento. Allora, senti, ma allora facciamo un piccolo passo avanti. Quindi, che cosa succederà al Palazzo Renzo dalle 10 di domenica 7 fino alle 20 di lunedì 8 maggio? Succederà che voi aprirete questa fiera sul vino biologico, biodinamico e naturale, che poi anche lì vale la pena di capire, cioè vorrei delle dritte su di cosa si tratta, un po' più nello specifico e via dicendo. E quindi le persone acquistando un biglietto potranno bere di tutto? Ingresso, 18 euro, okay. Braccialetto, calice e via. Si parte con la degustazione delle bottiglie presenti. Sono 80 di produttori, ogni produttore porterà 3-4 bottiglie. Ma tipo io che sono veneta col mio bel bicchierino, il mio bel gotto, la mattina giornata. Alle 10:30 mi posso... veramente? No, il consiglio è proprio quello di arrivare abbastanza presto, non in tarda serata, a stomaco pieno. Prendersi buona parte della giornata, perché così ognuno ha i suoi tempi, si fuma la sua sigaretta, va ad assaggiare nelle postazioni curate da Marco, nelle postazioni food, le preparazioni. Quindi abbiamo la direzione dei vini e poi dalla parte Marco invece quest'altra voce, la direzione del cibo, food. Mi piace il food. Io mi occupo di quello. E quindi cosa stai pensando? A qualcosa che possa andare incontro e si possa sposare maggiormente ai sapori delle... Sì, più che ai sapori, ai cosiddetti abbinamenti ai vini, che avendo centinaia di vini non ha senso pensare abbinamenti, ma ha più senso pensare a quello che la gente ha bisogno subito dopo aver degustato una 20 di vini, cioè deve mangiare semplice. E quindi abbiamo optato assieme a Luca su qualche produttore, qualche artigiano, chi produce il pane, chi l'olio, chi l'origano, perché appunto saranno piatti molto semplici, pane, olio, origano, con arancia amara grattugiata piuttosto che una lasagna. Comunque il cibo sarà quello, un comfort food, però adesso non ti voglio chiedere troppe anticipazioni perché no, poi si svelano tutti i segreti. Non le ricordo. No, mi immagino che tu sarai sul pezzo da un bel po' per gestire una simile, un simile menù che si dice, cioè, che sì, sono sul pezzo da un bel po', però ancora non ci siamo siamo arrivati alla fine. Siamo tanti, è un bel progetto. Voglio citare appunto uno degli stand che sarà presenti nell'ambito food, è stato intitolato Frisa is the future. Wow, mi piace, mi sta molto, molto coccico. Sì, è molto coccico. Ci sarà un cuoco che è un nostro amico, Alessandro Miroballo, pugliese come Luca, e semplicemente con un estrattore estrarrà dei vegetali il loro succo, farà rinvenire le frise, farà due o tre piatti a base le frise rinvenute col centrifugato, qualche formaggio, qualche acciughetta. Cavoli. Vediamo, questo è uno degli stand che mi piace di più. Ma c'è qualche sconto per chi viene lì con la tenda e non si muove più da lì per due giorni? Abbiamo uno spazio tenda che è al terzo piano. Ah, benissimo, Renzo. Mi prenoto. Sì, c'è vista anche su. Ah, sì, è vero, che passa l'arietta fresca dai colli. Abbiamo anche fatto togliere il cantiere sul Nettuno. Ah, ok. Dal seno delle ninfe sgorga vino. Meraviglioso. Così, com'è che si chiamavano le feste di Bacco? Dionisiache. Belle dionisiache. No, va bene. Allora, abbiamo fatto un altro passo avanti. Rifaccio un passo indietro e adesso che abbiamo un po' introdotto la questione vino e la questione cibo, andiamo sulle parolone che spiccano sul nome della fiera. Allora, biologico, che più o meno ci siamo, che vogliamo dare due, cioè, per biologico cosa si intende? Che sono temi delicati di questi tempi, questo, volete che lo lasciamo perdere? Passiamo a biodinamico. No, biologico. L'importante per avere un prodotto naturale è la microproduzione, fondamentalmente. Sappiamo che non tutto il biologico è vero biologico, sappiamo che l'Unione Europea ha innalzato a dismisura i livelli, i parametri entro cui il biologico deve rimanere, quindi è chiaro che si guarda non tanto alla certificazione ma quanto al numero di bottiglie prodotte, alla quantità di ettari di terreno posseduti. La biodinamica è un'altra storia. La biodinamica ha un suo disciplinare molto più rigido del biologico, si rifà Steiner. Non so se hai mai sentito parlare delle scuole steineriane. Sì, per sì. Bambini. Le scuole steineriane per bambini non utilizzano libri di testo, cercano di sviluppare le attitudini del bambino in maniera spontanea, naturale. L'intento del produttore qual è? Biodinamico. È rendere più fertile possibile il terreno in modo che la pianta nasca forte e indipendente e lui non debba intervenirci. Quindi, in parole povere, che cosa significa? Quindi si comincia dal rispetto proprio della terra. Sì, è là il. È bellissimo il parallelo che hai fatto tra i libri, la formazione e il rapporto con la terra, no? Beh, sì, perché non la cultura. Lo steineriesimo comprende varie filosofie. Quindi che vengono tutte in parte applicate, conferisce al prodotto una naturalezza superiore sicuramente, perché prevede la totale assenza di sistemici, fertilizzanti e pesticidi in vigna, totale assenza di manipolazione in cantina, cosa che non sempre il biologico invece garantisce. Però io vorrei anche che mi dicessi qualcosa di più su questo terreno, perché poi ovviamente mi immagino che questa cosa valga tanto per la vigna quanto per le altre culture, da cui poi arriviamo alla frisella e alle verdure che poi centrifughiamo, e quindi a questi sapori che andranno ad integrarsi insieme in queste due giornate. E cosa succede? Cioè, come si fa a far sì che un terreno possa essere biologico? Cioè, insomma, la terra è inquinata, no? Quindi devi proprio prenderti un pezzo di terra, tenerlo lì, trovare il modo di ripulirlo e poi magari metterci delle creare un'azienda agricola e pagare un organismo di controllo qualsiasi che non farà assolutamente nessun controllo sulle tue terre, ma solo sui tuoi documenti e sulla tua burocrazia. No, Marco, davvero. E a quel punto ti darà il bollino del biologico. No, non voglio dire biologico, questo. Non il biodinamico. No, il biodinamico non lo voglio toccare perché comunque è una cosa meno standardizzata. Però io da parte mia sono un critico sul biologico, nonostante abbia un'azienda biologica che produce olio di oliva biologico. E forse proprio per questo dobbiamo cominciare a ragionare, a studiare bene la problematica legate a questo e a capire se il bollino verde europeo biologico è necessario o meno. Guarda, mi è capitato di vedere una puntata di Report sulla vecchia stagione che effettivamente mi torna molto in mente, ecco. A questo punto Dai, è fondamentale l'onestà, no? Del produttore, l'onestà, cioè, ma in tutte le cose l'onestà dell'uomo va in primis. E adesso poi la domandona più l'onestà dell'uomo di sti tempi, guarda che lasciamo perdere. Sì, quello è il problema. Però adesso la domanda va più sul pungente. Voi come avete fatto a identificare le identità, le persone che quindi faranno parte di questa fiera? Perché sulla quale garantite voi, no? Cioè, nel senso, loro sono tutti garantiti con i loro certificati, le loro cose, però siete voi che li avete scelti per arrivare a questa vetrina che è un po', diciamo, la crème della crème di questo genere, almeno dal vostro, per quello che sapete, mi sembrate persone informate, insomma. Sì, inizio io, che è più facile, perché io riguardo, per quanto riguarda il food, ho scelto degli artigiani che ancora non si sono lanciati nel commercio, nel mercato. Quindi fanno piccoli mercati, piccoli, e riforniscono dei gruppi di acquisto abbastanza piccoli da non correre in tentazione. Sì, abbastanza piccoli anche ad essere raggiungibili da me. E le due zone geografiche scelte sono Monte Romano, vicino Marradi, al confine tra la Romagna e la Toscana, e Noto, in Sicilia. Wow! Da dove vengo. Ah. Quindi ho scelto questi due artigiani, i due del nord, chi produce pasta e chi produce pane, comunque parliamo di farinacei, ci sarà un pane, un ottimo pane portato domenica mattina in camuffa. Come in camuffa? Me lo dici in radio? Dovremmo riuscire a entrare nella zona T domenica mattina col pane caldo. Non so se voi potete aiutarci. Beh, è talmente una cosa meravigliosa che dovrebbero stendervi anche un tappeto Abbiamo rosso. Abbiamo qualche bicicletta, qualche cestino. No, vabbè, con la bici posso aiutare anch'io. Ecco, sì. Ci sono parte della punta delle biciclette per fare i trasbordi. Esattamente. E cosa succede? Che io ho perso. Si è perso, ogni tanto succede. Beh, allora, per continuare, quindi, invece passiamo dall'altra parte. Quindi abbiamo detto come hai trovato i tuoi produttori, ovvero hai identificato questi due territori. Sì. E poi ci hai costruito un rapporto diretto sul quale mi piacerebbe magari sì anche loro saranno come presenti. Come sei andato da loro? E da loro sono ciao, arrivato per caso. Sei biologico davvero? Non mi vergogno di dire che sono rapporti di amicizia. Da tempo ci seguiamo, io seguo il loro lavoro, loro il mio, so come lavorano, so quello che fanno e so quello che possono offrire, e quindi più che puntare su produttori o artigiani più conosciuti. Vabbè, per quello poi ci sarà tempo, quando tra altri 2 anni diventerà una settimana. Una settimana lunga, no? Rimarranno 2 giorni, però. Però da 36 ore l'uno. Da 36 ore l'uno, sì, li facciamo. Passiamo dall'altra parte, Luca. Tu come hai fatto a scegliere i tuoi? Che sono un po' di più, mi sa. Beh, sì, sono loro i principali. E poi sono anche internazionali, no? Beh sì, sono per in questo settore, nella tutto il filone che io seguo, una importanza rilevante rivestita dagli sloveni, no? Dal Carso, dal Colle Friulano e sloveno, dove si trovano i cosiddetti orange wine, i macerati, i vini invecchiati. E ovviamente tutta questa serie di contatti e di ricerche vengono dalla tua esperienza di lavoro con il Medulla, che è un posto dove, in via Oberdan, dove si vende vino di qualità anche a prezzi eccezionali, cioè lì si arriva con la bottiglietta, giusto, vuota, tu gliela riempi di vino buono, biologico, che ti fa bene, e gli chiedi solo, non so se per tutto, però per quelli 3,50 euro. Stai parlando dei vini, ascoltatori, 3,50 euro per una bottiglia di vino biologico con un bellissimo tappo con il marchio Medulla, e io fossi in voi ci passerai, poi non lo so. E magari intanto provo a buttare lì un 333 180 94 94, che ripeto che è 333 180 94 94, e tra un po' lo ripeto di nuovo perché mi dicono di ripeterlo, e per, se avete curiosità su questi temi, se non lo so, se volete sfruttare i saperi di questi due esperti di biologico, biodinamico e naturale, che vanno parole che proprio vanno alla grande in questi ultimi anni qui in città, ma se avete delle curiosità, magari anche dei trucchi per saper riconoscere quali sono le etichette vere, false, non lo so, mi guardano strano. E allora, intanto che loro mi guardano strano, io ripeto nuovamente 333 180 94 94, e tanto per gradire, dopo tanto tempo che ci mancava, mando anche i due minuti di Lolli. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Buongiorno a te. Te come sta? Come caldo, voglio fare il bagno al mare? Tu ricordi di me, tu hai scritto tuo email. Ora, io sono pronta a discorso. Mio nome è Lyudmila. Non so il tuo nome. Come ti chiami? Io continuo a parlare di se stessi. Mi piace un nuove persone, intelligente, con contenuti, con valori, con un carattere forte, deciso, che sappia cosa vuole dalla vita, ma serio. Descriversi non è facile. Sono una ragazza con molti interessi, tranquilla, gelosa, mi piace viaggiare, sono allegra, mi piacciono cucinare e sono molto creativa, amo il calore della famiglia. Aggiungere che io, una donna determinata, e mi piace andare in moto, viaggiare, fare shopping, ballare salsa. Weekend io piace di essere a teatro, fare shopping, sport, cantare. Se il tempo me lo consente, vado a bowling e biliardo. Su sabato mi piace, passa il tempo con i suoi amici. Forse potremmo incontrare e prendere una tazza di tè. Ti mando alcune foto e ti vedi. Vorrei tanto sapere più di te, se mi rispondi. Sara, lieta di parlare con te di tutto che vuoi sapere di me. Aspetto le tue notizie. Sarò lieto di vedere la tua lettera. Mandami per favore le tue foto. Io non ricevo email da tuo. Scrivo a me su un personale email. Cara, saluto. Già finito? Sono lo stalker di Roberta Giallo e voglio sapere com'è vestita mentre ascolto Coxo Spaziale. Sono Roberta Giallo, questo è il jingle per il mio stalker, sono vestita di grigio rosa e sto ascoltando Coxo Spaziale. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Come il nome di un cinese. Qualcuno di voi ha idea di cosa sta succedendo? Qualcun altro potrebbe obiettare che non sta succedendo nulla, mentre alcuni potrebbero essere sicuri che forse è già successo e quindi non ci si deve preoccupare. Tuttavia, ciascuno si preoccupa di tutto, anche di qualcosa che non c'è, anche se taluni sono convinti che invece è accaduto veramente, e quindi preoccuparsi è quasi un dovere. ma per tal'altro ciò che preoccupa qualcuno è solo roba di poco conto, buona per dare spunto per un editoriale di un settimanale a sfumature rosa o per una retrospettiva su Pasquini newyorkese. La vastità delle possibilità e degli intrecci è infinita e insondabile, ed è per questo che ora fisso e rifisso il cucchiaino che mescola il mio caffè, caldo come un abbraccio e amaro come la vita. Coxo spaziale. E rieccoci alla 180esima puntata di Coxo Spaziale, dove Luca e Marco, due promettenti studenti di legge, si incontrarono qui a Bologna, uno proveniente dalla Trinacria, quest'isola meravigliosa che sta lì sulla punta del nostro stivale, l'altro dal Tacco. Si incontrarono sui banchi di scuola e si dissero: ma cosa potremmo fare insieme in questa città? Potremmo fare, ve lo dico io che cosa, un bel venerdì sera potremmo partecipare a... L'angolo della menzione. Dopo vent'anni. Dopo vent'anni siete arrivati a questo punto. E purtroppo avevamo anche una telefonica per saperne di più, però ci accontenteremo di questa scritta perché purtroppo Roberta Zerbini non sono riuscita a prenderla in linea. Quindi chi comincia? Vado io? Vai. Ok. Io faccio la seconda. Siamo già tutti strutturati. No, ma... Ok, allora, 29 aprile, che dovrebbe essere tipo domani? Spero di no. Già? Sì, sì, 29 aprile. Già domani, sei indietro col menù. Sì. 29 aprile, dalle 18, giornata mondiale della danza, festa al Paleotto. Dove? Al Parco Paleotto. Nell'atmosfera magica del meraviglioso Parco del Paleotto, sapete dov'è? No, è quello a San Ruffillo in collina, ci si arriva anche col 13, cioè nel senso ferma lì vicino, un po' ti fa un pezzo a piedi e si raggiunge meravigliosamente, che ci ospiterà dal crepuscolo all'arrivo delle stelle. Condivideremo danze, musiche, calici e buon cibo, ognuno porterà qualcosa per condividerlo attorno a un grande tavolo. Regaliamoci una serata per incontrarci, conversare, confrontarci, uno spazio-tempo per stare insieme, condividere e danzare. Ho abbassato il volume, secondo errore della puntata. Ecco. 3 maggio. No, ci voleva lo stacchetto, scusami. Ah beh. E quindi il mio errore l'ha fatto fare anche a te, hai visto come funziona il coxo, Quindi, peccato che non ci sia stata Roberta, perché fra l'altro questa è una bellissima iniziativa, adesso dico due parole io, visto che non sono riuscita a chiamare lei. È organizzata questa iniziativa, è organizzata da... Ecco Danza, la cui direttrice è appunto Roberta Zerbini, una danzatrice coreografa che nel corso degli anni per diverse volte è riuscita a fare una sorta di miracolo urbano, mettendo insieme tutti i danzatori bolognesi, le varie scuole, per riempire la città di danza. Ricordo che l'ha fatto per diversi anni ed erano state giornate bellissime, poi ovviamente certe cose qui a Bologna sfumano nel ricordo, però chissà che sia un'anticipazione di una nuova ripresa di invasione danzante della città. Prego Marco. 3 maggio, dalle 19, presentazione di Chronicles from the 20s, Loft Kinodromo. Chronicles from the 20s è il canale YouTube dedicato alle interviste a ventenni di tutto il mondo. L'ambizione è quella di raccontare speranze, punti di vista, storie, emozioni della generazione di cui tutti parlano. Ragazzi tra i 20 e i 29 anni hanno occasione di dire cosa pensano dell'attuale situazione del mondo globalizzato, dello straniero, dei migranti, del terrorismo, della comunità europea, della Brexit, della possibilità di viaggiare e vivere senza confini, amore, futuro, lavoro e molto altro. Alla fine di ogni intervista poi tutti sono invitati a raccontare una loro proposta, cronaca dai 20 anni. E domani appunto alle 19 ci sarà la presentazione di questo progetto, della sezione italiana di questo progetto, e da domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link per andare a vedere anche questo canale, che appunto è da vedere. chi mi fa il 7 e l'8 maggio, lo so che voi lo state litigando, che questa poi la rifaremo anche settimana prossima, paro paro, ce l'ho già pronta, perché riguarda quei due studenti di legge dei tre. Sono già caldo, lo faccio io. Dai, dai. Se sì, me lo vuoi rubare così. È facile. Vai, va, ok, ok, vai. 7-8 maggio dalle 10:30 alle 22, Artigiani del Vino 2017. Palazzo Renzo, di chi si parla qui? Alla seconda edizione il festival dedicato agli artigiani del vino biologico, biodinamico e naturale italiani ed esteri. Degusteremo produzioni attente che rispecchiano e rispettano le caratteristiche delle terre d'origine, dove la vite cresce libera da pesticidi e fertilizzanti sistemici e lontana da invasive manipolazioni in cantina. Produzioni che, nutrendosi di energia della terra, diventano nella bottiglia gusto, profumo, struttura ed eleganza. Avresti fatto meglio. Certo. Ma è poesia quello che avete. Io per riprendermi devo mettere un branino. Che branino possiamo mettere? Allora, quello di Pasqua della Cina abbiamo già ascoltato. Ma questo qui, che è un po' pop, però a sentire che sono con voi in questo momento io mi sento un po' così. Se parte. Sono proprio happy di essere qui con voi. No ragazzi, veramente grazie, con le menzioni poi state andando benissimo. Dici? Pensando ai vostri trascorsi sono ancora più proprio cocsicamente gioiosa, e quindi però noi che mi sono, adesso che mi sono un po' ripresa e vi ho trasmesso questo mio stato d'animo gioioso, ne ho fatto, cioè trasmesso nel senso non che non ce l'aveste voi, ma perché comunicato, ecco, con le paroline condiviso. Continuiamo con l'angolo della menzione, perché ce n'è un'ultima. Chi va? Ormai le ha fatte tutte lui. Quindi vai tu? No, va lui. Ah, vado io? No, vado io allora, se vuoi. Dai, vado io. Alle 20:30 di vabbè, anche qua ci spostiamo un po' avanti, chissà, magari anche loro torneranno poi nelle menzioni della settimana prossima. Dal 12 al 14 maggio alle 20:30, Caffettiera Blu, zona K, Milano. La compagnia Blue Emotion porta in scena una ricerca al limite della disgregazione del linguaggio teatrale. Un atto unico tratto dall'omonimo testo di Carol Churchill, capace di raccontare le dinamiche familiari, le angosce dell'attesa e della menzogna, dove elementi di verosimiglianza realistica vanno alternandosi e confondendosi con altri fantasticamente assurdi. E vado con lo stacchetto. E questo stacchetto introduce anche il primo ospite telefonico della super mega galattica 108ª puntata del Coxo, che è Giorgina P. Ciao Giorgina. Ciao, ciao. Che bello che sei, che ci sei ancora. Sì, ecco. Giorgina P, che è la regista di questo spettacolo, che appunto lavora con Blue Motion e che fra l'altro oggi si trova a Bologna. Esattamente, abbiamo appena finito la nostra seconda replica dello spettacolo di Caffettiera Blu, come tu dicevi, e siamo felicissimi perché anche stasera abbiamo avuto un bellissimo pubblico e abbiamo caffettato uno spettacolo molto blu. E infatti io ho avuto la fortuna di essere fra il pubblico di ieri sera ed è stata per me, cioè, ti dirò, guarda, rispetto alla presentazione che ovviamente sottolinea il lavoro drammaturgico, la riflessione, devo dire che magari cela un pochino il fatto che lo spettacolo sia anche estremamente godibile e anche inaspettatamente veloce, nel senso, dura tutto il tempo che deve, però sembra che duri troppo poco. Io ne volevo ancora di più, come ti ho detto ieri sera. Beh, di questo ti ringrazio, insomma. Scusami, vai. No, volevo appunto sapere se, allora, beh, sicuramente sarà andata benissimo anche questa sera. E quindi continua la tournée, andate a Milano la prossima settimana? Sì, cioè, quella esattamente, dopo andiamo fra una decina di giorni, fra un paio di settimane a Milano e siamo molto contenti, soprattutto perché Carol Churchill è un'autrice famosissima in tutto il mondo, in Inghilterra è considerata il più grande autore vivente, però in Italia è praticamente sconosciuta, nonostante lei scriva oramai da 50 anni. Che Carol Churchill ha 80 anni, anche se è un'incredibile giovinetta con la sua penna. E dunque, oltre ad amare molto questo spettacolo, ci piace molto il fatto che stiamo facendo conoscere questa autrice che è molto sconosciuta. Io, a proposito di far conoscere, visto che comunque voi siete una compagnia romana, coglievo l'occasione per chiederti un pochino come nasce Blue Motion, visto che comunque nasce da un percorso estremamente solido e anche storicizzabile in qualche modo. Beh, sì, chiaramente poi come sempre le teorie si scrivono dopo che le cose accadono, no? Noi con grande effervescenza diversi anni fa abbiamo sentito a Roma la necessità di occupare uno spazio che è l'Angelo Mai, e insieme a tanti altri artisti abbiamo portato avanti questa esperienza di questo laboratorio di arti con molta tenacia, perché siamo stati da una parte premiati, a un certo punto ci è stato assegnato un luogo, poi sgomberati varie volte, c'è stata un'inchiesta folle che a un certo punto ci ha visto arrestati per associazione a delinquere, ma in mezzo a tutto questo siamo riusciti sempre a fare politica attraverso le nostre scelte artistiche, e tra queste appunto c'è stata la creazione del collettivo Blue Motion, che da 2 anni lavora su questa drammaturga, che non è un caso che abbiamo scelto lei, proprio per la potenza da una parte immaginifica della sua scrittura e dall'altra etica e politica. Beh, io non posso che ringraziarti per questa, cioè, fra l'altro sei appena reduce dalla seconda data, quindi ti lascio e ti rimando a gioire e comunicare con il pubblico e la tua compagnia. Ti ringrazio anche per questa parentesi e anche che ci ricorda che qui in Italia, nonostante le difficoltà, esistono realtà che sostengono la cultura e in maniera concreta e anche estremamente qualitativa. Giorgina, grazie infinite. Grazie a te. Salutami, complimenti per ieri sera a tutta la compagnia e, come si dice a teatro, tanta merda per tutto lo stivale merda, e oltre. Merda. Ciao. Merda, merda. Un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao. Come vi sentite, ragazzi? Avete fatto la vostra prima esperienza telefonica con menzione del coxo spaziale, eh? Non vi sentite tutti? Sì, senza intervenire, tra l'altro. Volevate fare la domanda? Ma almeno un saluto dovevamo, no? Guarda, io ti ho un po' abbassatino il volumino perché mi facevi il brucaliffo con quella sigaretta al vapore. A dici? A me che c'è la musica di sottofondo con Amon Tobin che sembrava quasi un effetto, però ho detto, beh, aspetta un attimo. Mi spiace. No, ma è vero, sono cattiva, ti sto tirando le orecchie dall'inizio della trasmissione. Che cosa mi sta venendo fuori? Senza Pasquini io poi perdo le staffe e divento austro-ungarica, anche troppo. No, ma ritorniamo a noi. Volete che metto su un branino così magari... Perché no? E quindi potrei mettere un branino carino e simpatico sulle misure degli alfabeti. Sì, è la misura, cioè, allora c'è praticamente, no, metto sul brano, poi ve lo racconto in fuori onda. Sentite com'è gioioso. È carino il video di questo. American dream is to be supreme, the bigger the better, the biggest ever. Size matters. David versus Goliath. You're the kick drum, I'm the hi-hat. Size matters. We took a giant leap for mankind, we took a small step for cheese. Size matters. You had stuff on paper, you had stuff on a fucking hill. Size matters. More isn't less, it's more. Size does matter. Size matters. For every actor that we got, you got a cast and a crew and a million dollars. Size matters. I complain about my belly fat, you die from it, I can compete with that. Size matters. It feels so small, but we must not forget the size matters. And we got the biggest alphabet. We got your team and letters, you only got 26. Let's see how big you are when you suck a fucking vowel. Suck my ass. Size. Bigger, better, stronger, faster. With I-O, I am the master. What makes you think you're qualified for this job? Well, I-O, I got I-O. Champagne for everyone, not me. Champagne for everyone. Avrete anche lo champagne? Certo. Sì, da dove? Dallo champagne. Dalla Francia. Certo. Non avevo mica capito che ci fosse anche la Francia. Ma da dove vengono? Da quanti sono quegli stranieri? Oppure come hai conosciuto quegli italiani? Ma no, tra Francia e Slovenia saranno un 30%. Aspetta che rifaccio il punto come l'avevo dimenticato. Perché noi stiamo parlando di una cosa che succederà tra il 7 e l'8 maggio, come abbiamo menzionato prima. Da domani potrete andare a rivedere su www.coscosaziale.com, mi sono impapperata a dirlo, che è una fiera sul vino biologico, biodinamico e naturale, che avrà ovviamente, oltre alla degustazione, la degustazione dei bicchieri, anche una parte di sostegno dell'intestino curata dall'altra voce, che è quella di Marco. Solo la voce. E invece Luca si è occupato proprio... Come nasce quest'idea? Perché? Che fra l'altro era ad un anno dall'apertura di Medulla, dico bene? La prima edizione, sì. Perché è la seconda edizione. Sì, esatto. A Palazzo Renzo, quest'anno. Quest'anno. Ma nasce perché secondo me, cioè secondo noi, mancava in una piazza importante quale Bologna un appuntamento del genere, e di a voi, una certa rilevanza. E quindi a voi mancava come insomma esponenti di settore, perché bene o male tu hai questa enoteca e mescita, dico bene, mi sono espressa con le parole corrette? Sì, è una vineria. Ok, vineria, che mi piace in pure di l'altro. Più. E tu invece dicevi che hai un'azienda agricola e comunque... Sì, ho un'azienda agricola in Sicilia, ma fondamentalmente curo le degustazioni che Luca poi tiene in enoteca, okay. Occupandomi del food. Mi ripeti il bellissimo nome della tua azienda oppure della tua iniziativa? La mia iniziativa per cui sono presente a questo evento si chiama Postrivoro. Postrivoro. Sì, dillo tu con la tua R, la mia. Postrivoro. Ecco la mia questa. Ah, scusa, mi sono confusa. Ripiglia la tua R, dai. Postrivoro. Postrivoro, sì. Postrivoro nasce a Faenza 6 anni fa. È una è un incontro tra vari maniaci del cibo, del vino, e abbiamo creato questo format per cui chiamiamo dei giovani chef, normalmente sous chef dei migliori ristoranti di tutto il mondo, a cucinare a Faenza, con, accompagnati da un sommelier, da un amante di vini e da un artista che poi allestisce la sala che ospita il tavolo unico. Cultura 360. Sì, ed è lì che appunto è arrivato 280. Luca, richiamato da questa qualità, e ti ha conosciuto. E no, si conobbero prima. ci siamo conosciuti tanto tempo fa. Sì, io studiavamo assieme legge. Detto con questo bel sospiro. Sì, poi tutto è finito. No, tutto è iniziato. No, tutto è finito. E poi finalmente i siciliani sono un po' così, no? Drammatici. Sì, ma non puoi dire che sono siciliano, perciò l'S romagnola, faentina. E la R parmigiana. La R parmigiana. Vabbè, che te devo dire? No, sono siciliano, però sono cresciuto in Romagna, quindi. Ah, beh, allora un altro paio di maniche. Ah, sì, eh? Sì. Okay. Confermo. Ti riattesto la tua territorialità. Mi spiace comunque. Che cosa? No, che mi riattesti. Ed sì, è tutto finito tra di noi. Vedi che continua a essere siciliano sotto, che sì, si rammarica, soffre. Ma perché in Sicilia lo soffrono tanto con quella bella terra che c'hanno? Beh, no, dai, ho detto un po' una coxata. Cosa guardi tu, Luca, che sei lì che mi guardi il monitor, che ti distrai con la cuffia mezza su e mezza giù? Ti volevo lasciare un attimo da soli. Facciamo così allora, io e Marco ci spostiamo a dialogare di lato, tu io prendi get on the mic. No, vabbè, stiamo entrando nell'ultimo proprio minutaggio della trasmissione, tra un po' andremo con i saluti, poi ai 2 minuti di l'ho mandato perché siamo a posto. Vogliamo dire qualcosa che magari ci siamo dimenticati, abbiamo lasciato indietro, ripetere qualcosa che potrebbe essere utile? Bel momento di vuoto coxico, come ad ogni puntata è lecito. No, l'invito è veramente di intervenire, perché secondo noi è un evento, non perché l'abbiamo fatto noi, non perché ci abbiamo messo un impegno ma perché è una figata allucinante. A Palazzo Renzo giri col tuo bicchiere a destra e a manca, ti pigli da bere dalla mattina alla sera e in più mangi anche cose che ti aiutano a poter continuare a bere, sembra proprio... L'importante è il domani successivo stare bene. Infatti, e questo è determinante, e che chissà che magari anche porti un po' questa cultura, faccia capire in maniera pratica che conviene, no? Non solo per una questione etica, di rispetto del territorio, della terra. Ma rispetto di se stessi anche, no? Perché alla fine la terra siamo noi. Scusate, mi è scappato, non avrei dovuto dirlo. Comunque, in ogni caso, perché non l'avete chiamata qualcosa tipo baccanale? Mi immagino che escono in Piazza Luca. Maggiore tutta questa gente barcollante di Sai, gioia. Magari i produttori proprio non sarebbero stati così contenti. No, però avrebbe avuto molto appeal, sai? Sì, descrivere la fiera così è un pugno in faccia ai produttori che... No, però devono capire dove stanno venendo, perché non è un evento tipico. Ma non è che deve nascere qualcosa di nuovo. Ma non è che prima di fare, cioè tra l'avvocato e questo sei stato anche professore, che mi sento tipo non si dicono queste cose. No, hai ragione, scusami. Ma perché ti ho corretto? Che ti ho detto? Mi sono sentita un po'. No, il professore l'ho fatto io, no, non so che dire, quindi intervengo. In ogni caso qualcosa c'è. E cosa insegnavi, caro? Diritto. Mi sembra giusto. Quindi all'università o alle superiori? No, alle superiori. Sorbole, che anni, Dai, allora. Finito tutto. Ritorniamo. No, ma allora a questo punto vi chiedo un po' di numeri, così. Quanti? Ecco. Quanti produttori? 80. L'anno scorso, cioè 2 anni fa, la prima edizione quanti? No, saranno stati una quindicina in meno. Ah, ok, quindi meno è lo stesso numero, non si è voluto fare una cosa immensa, ma neanche una cosa molto minima. E questo è un dato molto importante, perché ancora di più sottolinea come badate alla qualità, perché ovviamente queste realtà vanno, cioè ci vuole anche tempo per scoprirle, conoscerle. Sì, è proprio anche come diceva Marco, no? È il visitatore che deve parlare con il produttore, che deve essere curioso, che deve stare a te, cioè non vogliamo lo sbevacchiamento, punto. Ah, allora vogliamo sì. La curiosità della gente. Va bene, scusatemi, io invece sono rimasta alla parte veneta della questione. Che sapete che l'unica manifestazione culturale che c'è, per dire ne una, a Treviso, almeno era così tempo fa, era l'Ombra Lunga. Bella. Beh, fanno tante in Veneto, eh? In Veneto ne fanno tantissime, guarda, sul serio, anche alcune molto molto belle. Vabbè, ma mi dico, non fanno una mostra, non fanno una cosa, l'unica cosa che il comune sponsorizza è l'Ombra Lunga. Vabbè, ok, no, comunque per carità, va bene. Infatti sono venuta a vivere qua a Bologna, non per un caso. No, comunque, ragazzi, siamo arrivati alla fine della 80esima e basta. Volete tornare anche per la 183 per i postumi? Sì, io vengo. Ok, perfetto. E allora per il momento ci salutiamo, quindi grazie Luca di Medulla, che se lo volete rivedere prima del 7 basta andare in via Ober dal numero 18 barra e potrete anche provare sul campo, anzi nel bicchiere, quello di cui abbiamo parlato stasera. E un grazie saluto a anche a Marco di Postrivoro. Esatto. E dove veniamo a trovarlo, Postrivoro? Postrivoro è 7-8 maggio. Ah, ok, è una realtà che si manifesta. Così. Si manifesta, sì, sì. Nasce dal nulla. Ed è torna nel nulla, così, con sicilianamente. Senza lasciare nulla. Beh, sì, perché vuol dire che è leggero, che è un cibo che digerisci e che non dà problemi per la prova costume che si sta avvicinando. Minchia, sì. E con questa mia ennesima e ultima coxata, posso dire d'aver chiuso con la nella tradizione coxica anche questa puntata. Vi ringrazio di essere stati con noi. E grazie a te. A presto, ci risentiamo. Ciao, la grazie. Settimana prossima, poi mi dirai ti chiamo. Certo. Ma volete fare un salutino dell'ultima? Siete sicuri? Niente? Ma grazie a tutti, buona serata a tutti, buon bicchiere a tutti. Ciao. Lo slogan. Sì, ma senza fare il baccanale, però, mi raccomando. Ciao. Ciao. Buona serata.